Siamo con il professor Gavino Maciocco, professore di igiene e di sanità pubblica, col quale ci interroghiamo rispetto alla situazione del sistema sanitario nazionale di fronte a questa emergenza, ma facciamo qualche passo indietro e parliamo di come si è trasformato, di come è cambiato il nostro sistema sanitario in questi ultimi 10 anni. Buongiorno, professor Maciocco. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato perché mi fa molto piacere condividere con voi queste riflessioni. Allora, se noi dovessimo fissare una data dopo la quale il sistema sanitario italiano ha iniziato una lenta discesa verso l'abisso, in cui ora si trova a causa anche degli eventi che tutti noi conosciamo, questa data nel 2011, quando a causa delle politiche di austerità furono adottate una serie di provvedimenti che andavano, diciamo, a ridurre il finanziamento del sistema sanitario italiano. Quindi si partì con l'aumento altissimo del ticket, con il blocco del turnover del personale che andava in pensione e quindi progressivamente negli anni noi abbiamo avuto una costante, quello che si chiama definanziamento del sistema sanitario rispetto alle sue necessità. E le necessità erano molto alte perché da una parte c'era una popolazione italiana che, come noi sappiamo, è una popolazione con un'alta percentuale di anziani e quindi con persone che richiedono maggiore assistenza a causa delle maggiori patologie e in parte anche dovuta al fatto che quando una popolazione si impoverisce ha bisogno di più servizi e di più reti di protezione. Invece, dopo questa crisi del 2011, le reti di protezione si sono fortemente allentate e alla fine c'è stata una complessiva riduzione dei servizi alla popolazione con l'aumento delle liste d'attesa e con il progressivo sempre maggiore ricorso al settore privato. E qui si innesta invece una considerazione più di tipo politico, nel senso che l'indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale ha di fatto provocato un aumento dell'offerta privata. E tutto questo non è stato un caso, è stato probabilmente, anzi sicuramente, un effetto voluto, cioè l'indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale era funzionale all'allargamento del settore privato che offriva servizi senza tempi d'attesa in pratica e a prezzi simili a quelli del ticket. Tutta questa parte, diciamo, componente di domanda privata e di offerta privata ha fatto sì che a un certo punto è entrato in gioco anche il settore assicurativo, perché è tanto il livello di out-of-pocket, cioè di pagamento diretto delle prestazioni da parte delle famiglie, che qualcuno ha detto, ma allora se è così alto questo livello, creiamo delle forme assicurative per coprire il rischio del pagamento out-of-pocket. E qui parliamo di secondo pilastro, cioè dell'idea di affiancare al Servizio Sanitario Nazionale un altro pilastro assicurativo privato. E in questa operazione c'è stata, diciamo, una convergenza di interessi perché tutti sono andati a un certo punto in questa direzione, dalla Confindustria ai sindacati alle grosse compagnie assicurative, e qui è nata una fase in cui è cresciuta notevolmente l'assicurazione integrativa aziendale, in cui le aziende fornivano ai propri dipendenti, diciamo, servizi assicurativi medici, non tanto integrativi, perché in realtà erano competitivi, erano sostitutivi dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale. E così si è verificata questa cosa assurda per cui gli operai ricevevano un minore aumento dei loro salari in cambio di avere queste forme di assicurazione integrativa aziendale. Di fatto pagando due volte la stessa cosa, perché noi paghiamo il Servizio Sanitario Nazionale attraverso la fiscalità e poi se uno si paga anche l'assicurazione integrativa aziendale riducendo il proprio salario, ovviamente questa cosa è un danno per tutti, per il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche per chi si assicura, perché è bene sapere che queste forme di assicurazione integrativa aziendale valgono finché una persona è occupata e quindi quando invece avrà più bisogno, cioè quando sarà pensionato, questi vantaggi non li avrà. In cosa si è, alla fine, come ci siamo ritrovati dopo alcuni anni? Ci siamo ritrovati con un settore del Servizio Sanitario Nazionale che ha perso circa 40.000 persone. E quindi alla fine, anche a causa dei pensionamenti rapidi che si sono verificati in questi ultimi anni, noi ci troviamo con il settore ospedaliero con un numero di specialisti fortemente ridotti, al punto che cercano di assumere ancor prima che capitasse il Covid gli specializzandi, insomma sappiamo bene queste cose. Anche il settore della medicina di famiglia ha sofferto fortemente questa situazione e quindi noi diciamo, prima dell'inizio del Covid tutti avevano capito che questi anni di indebolimento, di definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale stava portando il Servizio Sanitario al collasso, perché già avevamo reparti che avevano difficoltà a assolvere quelle che erano le funzioni di base. Prima del Covid la situazione italiana era più o meno questa. Gran parte delle attività specialistiche e diagnostiche non rientravano quasi più nelle funzioni normali del Servizio Sanitario Nazionale e venivano svolte dal settore privato, ma anche buona parte della chirurgia di elezione cominciava a soffrire di liste d'attesa molto lunghe. E quindi anche qui il settore privato si attrezzava per intervenire anche in questa area. Per cui alla fine noi facemmo un convegno, dico noi nel senso che c'è questa associazione La Salute Diritto Fondamentale, articolo 32, alla fine di novembre, in cui alla fine veniva fuori che il Servizio Sanitario Nazionale era il punto di riferimento per i cittadini soltanto per le gravi emergenze, cioè quando uno ha una malattia grave, ha l'infarto, ha un ictus, ha una frattura di femore, sa di poter andare al Servizio Sanitario Nazionale che gli garantisce delle cure di qualità. Ma per tutto il resto il Servizio Sanitario Nazionale faceva fatica ad assolvere altre funzioni, la chirurgia di elezione, l'attività diagnostica, l'attività specialistiche, con una medicina di famiglia molto indebolita non soltanto dall'esodo di moltissimi medici che andavano in pensione e non erano sostituiti, ma anche dal fatto che in questi anni i governi, i ministeri della sanità hanno sostanzialmente trascurato le cure primarie e hanno trascurato la gestione delle malattie croniche, come ampiamente ho spiegato, spiego a lezione, come spiego negli articoli che vengono pubblicati su Salute Internazionale, che è, diciamo, lo strumento, diciamo, di comunicazione di tutte le cose che vi sto dicendo. Ecco, allora, il Covid-19 ha fatto irruzione in un sistema già fortemente indebolito e ha fatto irruzione nell'unica parte del sistema sanitario che funzionava ancora a buon livello, cioè l'attività ospedaliera di alto livello, che però funzionava, diciamo, al limite delle proprie possibilità. Quando sono cominciati ad arrivare i casi di terapia intensiva del Covid-19, evidentemente tutto il sistema si è dovuto riorientare verso quel tipo di patologia e in situazioni come quella della Lombardia praticamente il sistema sta facendo soltanto con enorme difficoltà cercando di sopperire all'enorme massa di bisogni. Ecco, questo è diciamo in breve, il quadro. Se poi vogliamo parlare di come i sistemi sanitari mondiali si sono attrezzati per questa epidemia, per questa pandemia, la storia è una storia anche questa abbastanza simile per certi versi a quello che è successo negli ultimi anni in Italia, ma non soltanto in Italia, in tutto il mondo, diciamo, le politiche neoliberiste hanno fondamentalmente puntato a ridurre il ruolo dello Stato, perché questo è, diciamo, l'ortodossia del neoliberismo, ridurre il ruolo dello Stato in tutti i settori, anche in quello sanitario. E questa politica di riduzione del ruolo del settore pubblico, dello Stato e degli Stati è avvenuta anche a livello di OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ormai è da anni che ha perso il suo prestigio, la sua autorevolezza, perché gli Stati hanno sempre dato meno soldi all'OMS e in parte il privato ha rimpiazzato il pubblico, perché il secondo finanziatore dell'OMS, bene sapete, è Bill Gates. E quindi l'OMS non è più una struttura, diciamo, forte al servizio degli stati come era 50 anni fa, quando per esempio riuscì a svolgere un ruolo molto importante nell'epidemia di HIV e AIDS, quando riuscì negli anni 70 a eradicare il vaiolo in tutto il mondo, perché era un'autorità forte che riusciva a far fare agli stati quello che era necessario. Oggi purtroppo l'OMS non ha questa funzione, non ha un ruolo di effettiva autorità, basta vedere la situazione contraddittoria con cui ha affrontato la questione delle mascherine, di cui abbiamo ampiamente parlato nel Salute Internazionale, tra l'altro il post salvare gli operatori sanitari ha avuto quasi 120.000 accessi per dire quanto è sentito questo problema. E quindi tutti gli stati sono arrivati assolutamente impreparati, nonostante che diciamo, il ricorso di pandemie legate a questi virus che vengono fuori da quello che noi igienisti chiamiamo i salti di specie, cioè il passaggio di un virus dagli animali all'uomo, l'adattamento all'uomo e poi la possibilità che il virus contratto dall'uomo o dall'animale possa passare a sua volta da uomo a uomo. Noi abbiamo una serie, negli ultimi anni tutte le grandi epidemie nascono da questi salti di specie, a cominciare dall'AIDS, per andare alla SARS del 2003, per andare all'H1N1 nel 2009. Quindi noi abbiamo avuto negli ultimi decenni ripetute crisi provocate da virus frutto di salti di specie. Quindi la preparazione nei confronti di queste epidemie era già ampiamente prevista già nel 2009, quando ci fu l'H1N1 che veniva dal Messico. Tutti i paesi dovevano fare le stesse cose che erano previste oggi, cioè le protezioni individuali degli operatori, la quarantena, gli isolamenti, cioè tutte cose che qualsiasi Stato avrebbe dovuto già dal 2009, perché mentre la SARS del 2003 fu una cosa che per vari motivi durò poco, e si risolse con un numero limitato di vittime alla fine, l'H1N1 sembrava che fosse una vera e propria pandemia. Infatti, in realtà lo fu anche se non della gravità che era stata prevista. Però, insomma, interessò più di un miliardo di persone. Però aveva un livello di, diciamo, di letalità molto basso e quindi la cosa passò senza provocare gravi danni. Però le misure che si dovevano prendere erano molto simili a quelle che bisogna prendere oggi, quindi non sono passati tantissimi anni. Però Però le se... priorità... Pronto? Sì, la sento, no, Bene, le volevo dire, bene. Mi però dica. se non ricordo male, per la SARS vennero comprati pacchi e pacchi di vaccini che poi non servirono a nulla. No, no, questo avvenne Ah, nell'H1N1. nell'H1N1. Questo avvenne nell'H1N1 e ci fu questa, siccome fu dichiarato pandemia e c'era il vaccino, tutti gli stati si dotarono di vaccino e noi in Italia comprammo 24 milioni di vaccini e ne utilizzavamo soltanto 800 mila. Quindi ci fu un eccesso, diciamo, ecco, una valutazione di eccesso. Qui hanno aspettato anche troppo per prima di dire che c'era la pandemia. Allora forse fecero una operazione inversa e lo dichiararono forse con un anticipo, drammatizzando la situazione anche come detto, per costringere i paesi ad acquistare enormi quantità di vaccini e di antivirali. Perché a quel tempo c'era anche la questione dell'antivirale. Però in questo caso già a settembre, se non sbaglio, l'OMS parla di No, dunque, epidemie. a settembre non è che anticipa l'arrivo della pandemia, fa una valutazione della capacità dei Esatto. paesi di rispondere a una possibile pandemia. E questo è. E pone l'Italia cinquantesima. Pone l'Italia in posizione bassa perché però si è visto che anche gli altri paesi sono praticamente, voglio dire, anche altri paesi non è che abbiano dato dimostrazione di grande, come si è visto, basta vedere quello che sta succedendo in Inghilterra, insomma, ecco. Certo. Io non mi ricordo come avevano messo l'Inghilterra nella classifica dei paesi, certamente. L'Inghilterra sta adottando una strategia che non è certamente così funzionale al contrasto. Senta, ma in un momento come questo, in cui diciamo ci esplodono le contraddizioni, ci esplodono anche tutte quelle misure che sono state prese in questi, appunto, si parlava di 10 anni, senza fondamentalmente trovare troppa resistenza, quantomeno da parte della popolazione, può essere. Scusa, scusa un momento, mi sposto un attimo. Nulla. Può. Mi sente? Ma può essere questo il momento in cui veniamo messi di fronte a tutta una serie di problematiche, il momento per ripensare al sistema sanitario nazionale verso il futuro? Cioè, cosa chiedere a questo punto? Cosa esigere? Su cosa unirsi come popolo italiano nel richiedere una sanità, differente? Allora, io credo che questo qui sta già in parte avvenendo, nel senso che, per esempio, in Lombardia, che avevano un sistema in larga parte privato, però si sono resi conto che il settore privato in queste cose qui non riesce a fare, perché il settore privato si concentra sugli aspetti, diciamo, più interessanti dal punto di vista economico del profitto, quindi tante cardiochirurgie, tante cose di quei settoriali per coprire aree di mercato molto, molto ricche e non riesce per esempio a fare dei pronti soccorsi con la rianimazione, eccetera. Quindi tutto il settore pubblico è indispensabile per affrontare queste cose. Credo che le persone se ne siano accorte, tutti ormai dicono certamente è stato l'indebolimento del settore sanitario soprattutto se le cose andranno peggio al sud, la cosa sarà ancora più chiara e più evidente, insomma, ecco. Quindi credo che la sensibilità ora di rafforzare il settore pubblico tutti l'abbiano capita. Bisogna vedere se, passata la bufera, perché prima o poi passerà, ci sarà davvero un cambiamento di priorità. E bisogna capire anche se tutta questa polarizzazione verso le rianimazioni non faccia scoppiare ancora di più, diciamo, l'ambito ospedaliero ai danni del settore delle cure primarie, ecco. Perché poi gli investimenti, voglio dire, tutta l'assunzione del personale, infermieri, medici, eccetera, è tutto concentrato giustamente, inevitabilmente, sulle rianimazioni e sull'ospedale, mentre non si sta facendo praticamente niente sul territorio, dove tra l'altro una buona rete, come stiamo vedendo anche a Firenze, perché se tu vai a vedere quello che fanno i medici delle piagge, quell'esperienza della Casa della Salute, loro stanno tamponando una quantità di situazioni che se questa cosa diciamo, si verificasse anche altrove, diciamo, i cittadini avrebbero maggiori punti di riferimento che quelli che hanno adesso, ecco. Ma ce la spiega per chi insomma ci ascolta e non sa che cos'è una casa della salute o questo progetto che state portando avanti, in particolare alle piagge, che sicuramente insomma, ci sono Questo sempre è care. una forma di attività multidisciplinare all'interno di una struttura pubblica come quella della Casa della Salute delle Piagge, in cui c'è una collaborazione stretta tra medici, infermieri, specialisti, per cui i pazienti quando entrano sanno dove andare, sanno a chi riferirsi, se hanno dei sintomi sanno con chi parlare. Che risposta avere, se la situazione diciamo, è tale da dover fare un tampone. Insomma, tutte queste cose qui avvengono in un ambiente in cui ci sono diversi operatori che lavorano insieme e riescono a fare quello che non può assolutamente fare un medico che lavora da solo, perché le cure primarie oggi hanno un senso, hanno un significato e hanno anche un valore e una efficacia se vengono fatti con alcuni standard fondamentali che sono quelli che noi conosciamo bene di un lavoro integrato tra più operatori, medici di famiglia, infermieri, specialisti, operatori sociali. E questo sta avvenendo in una realtà, diciamo, abbastanza difficile e con altri livelli di bisogno come quella delle piagge, come sappiamo è un quartiere, diciamo, di case popolari alla periferia di Firenze in cui si sono concentrati persone con basso reddito, immigrati, insomma, un quartiere in cui insomma, un alto livello di bisogno, ma anche un alto livello così, di separazione dal resto della città. Professore, io la ringrazio molto. Troverete tutti i link agli articoli di salute internazionale di cui si è fatto riferimento nel nostro sito di Radio Wombat sotto il podcast di questa intervista. Professore, io la ringrazio ancora a nome di tutti e a risentirci presto. Bene, grazie dell'attenzione, grazie a voi e buon lavoro, arrivederci.